Friuli nel mondo. 51esima trasmissione dedicata agli emigrati. Canti popolari del Friuli. Quando si dice Friuli, il pensiero corre immediatamente al castello di Udine, sormontato dall'angelo girevole che domina uno dei più solenni panorami della penisola italiana. Dalla cerchia delle Alpi Carniche e delle Giulie sino al Carso, dalle colline dell'anfiteatro morenico all'Adriatico. Il castello di Udine, tanto per i friulani lontani dalla piccola patria, quanto per quelli che in essa vivono, è assurto a simbolo di tutto il Friuli. E al ricordo della città adagiata ai piedi del colle, che una leggenda vuole formato dalla terra trasportata dagli elmetti dei soldati di Attila, sulle labbra sorge spontaneo il canto dell'antica villotta che celebra Udine e il suo bel monumento e la bellezza dei suoi giovani, donne e uomini indistintamente, che sono, dicono le parole del canto, unici al mondo. Tanto che, secondo la sana e un po' maliziosa filosofia del popolo, baciare le belle ragazze friulane non costituisce il benché minimo peccato. O c'è biel chistiella Udin, o c'è biel zoventù. Zoventù come a Udin non si inchiate in nessun luogo. A bussà fantatis bielis, non le fregul di pechià. Ai bussade une brute, e il plevan mi ha cridà. Ma come Udine, un po' tutte le città e le contrade del Friuli hanno una loro villotta che ne esalta le caratteristiche. Chi non ricorda, ad esempio, quella quartina che garbatamente sottolinea il forte passo montanaro dei Carnici e la loro proverbiale povertà? Una povertà che l'uomo della Carnia non consente neppure di avere un grammo di tabacco nella tasca da cui spunta la canna della pipa. Venin giù i chiarniei di Chiarnie, venin giù batinti il tac. Con la pipa in tessacchete c'è un fregul di tabacco. Ma si sa come l'anima degli uomini della montagna e pertanto anche dei Carnici. Ci si consola anche della povertà, purché nel cuore, e il cuore ha sempre 20 anni per i sani di spirito, ci sia l'amore che canta. E quando l'uomo è innamorato, quando ha al suo fianco la dolce creatura che gli rischiara l'esistenza, non ci si accorge neppure che il tempo passa inesorabile. O, se ce se ne avvede, si manderebbe a farsi benedire anche la nascita del nuovo giorno che chiama alla fatica. È questo un concetto espresso da un altro canto popolare del Friuli. sulla più alte cime allieve il sorelli a buinore, ma queste no è l'ore di bandonà l'amor. L'amore è il motivo immortale dell'anima del popolo, il quale nella sua elementare saggezza ha compreso, guardando tutte le cose create da Dio, che dall'amore scaturisce la vita, che nell'amore la vita si rinnova e si perpetua. Certo, gli adulti e i vecchi non risparmiano le loro frecciatine scherzose ai giovani, che provano i primi trasalimenti, le prime gioie e le prime pene che l'amore mette nell'anima. Ma anche quando giungono a segno, quei frizzi non fanno poi tanto male. Eccone una di queste frecciate, una villotta carnica tenuta su un registro un po' scanzonato, ma bella appunto per il sorriso di indulgente comprensione per le ragazze che si sentono troppo sole in casa mentre fuori turbina la bora. Ma si consolino le ragazze, stiano allegre, perché il vento ha spinto sino a loro una grande barca carica di giovani da ammogliare. Ioi ce buere! C'è gran buere che si sinta businà, bessolini sot la plete, ma se ben non si può sta. Stait allegres fantacines, che allegres podestà, gli è arrivate une gran barche di fantaz di maridà. E c'è un'altra villotta in Friuli che par quasi il seguito ideale della precedente, solo che qui non sono più protagoniste le ragazze, ma un giovane. Un giovane che, giunto dinanzi alla casa dell'amata, implora che qualcuno dia un colpetto alla porta e faccia saltare il saliscendi, in modo che l'innamorata possa apparire sulla soglia e egli la stringa a sé con le braccia al collo. Bellissimo questo breve componimento popolare, che esprime con potenza di sintesi lo slancio affettivo dell'uomo per la sua promessa sposa. Dai un tic a di che parte, che si alzi che il saltel, salti fur la memurose, che la chiapi abbrazze quel. Dai un tic a di che parte. Salti fur la memorose, salti fur. Chi ha detto che il popolo friulano manca di calore e di slanci evidentemente non conosce i friulani. Già dalle villotte che avete ascoltato è risultato evidente come l'anima del Friuli sia una delle più poetiche d'Italia. Il friulano, questo sì, è un po' chiuso a chi lo guardi dal di fuori, ma quanta carica emotiva, quanta delicatezza e profondità di sentimenti racchiude in sé. Basterebbe l'esempio di una sola villotta fra le tante a dire il profumo, la soavità, la gentilezza dell'anima della nostra gente. Una villotta fatta di parole semplicissime, le più umili che cuore e labbra possano concepire nell'offerta d'un fiore che è simbolo del ricordo, la viola. Chiste viole palidute, chiolte su dal vascumo, vuoi donale a me mariute, al gno ben caledut gno. Sentimenti questi così soavemente espressi che appartengono al passato remoto, sentimenti che i giovani d'oggi non provano più. Ogni età in fondo si rassomiglia, se pensiamo che una delle più antiche villotte friulane del XV secolo, già 500 anni fa, tesseva l'elogio dei buoni padri antichi e aveva parole di rampogna per i giovani d'allora. Benedete l'antigae, ieredute buinein, e cumo nome bagae, sempre plene di buon timbro. Certo, il passato esercita una sorta di fascinoso richiamo su tutti, specialmente se sono trascorsi da molto i giorni lieti della bellezza e dell'amore. Una volta, si dice, e c'è l'ombra del rimpianto per le cose destinate a non tornar più. Come questa villotta che è entrata addirittura in una pagina d'uno dei libri più belli del nostro risorgimento, Le notterelle d'uno dei mille di Giuseppe Cesare Abba, il quale, riferendo le giornate della spedizione garibaldina in Sicilia nel 1860, scriveva: «Solo un friulano, confuso nella settima compagnia, cantava alto, con voce d'argento, i versi d'un'aria affettuosa, dolente, che andava al cuore». «Une volte ieri biele, blanche e rosse come un flor, cumo no, non soi più biele, consumade dall'amor». La rosade dalla sere bagna il flor dal sentimento. La rosade da mattine bagna il flor dal pentimento. Consumate, consumate, o fa l'amore. Un'uguale tristezza vibra in quest'ultimo canto dell'odierna serie di villotte popolari. Canto venato d'una malinconia ancor più profonda, ma stemperata quasi all'ultimo verso da una battuta che vorrebbe essere un frizzo ed è, a ben guardare, l'estremo rassegnato sospiro di chi avverte l'approssimarsi della morte. Se sentì sadì, ninine, cosoi muarti in quest pais, mi dire sun de profundis, che usal torni in paradis. Canti amari e inni festosi, arie lente e motivi scanditi come su un ritmo di marcia. È l'anima popolare friulana che abbiamo voluto offrirvi, cari fratelli in ascolto. E l'anima conosce tutte le sfumature dei sentimenti. Eppure, in tanta varietà di accenti, avrete individuato, ne siamo certi, un tono dominante, un carattere unico. L'intima bontà e serietà, l'alta e poetica spiritualità di quella meravigliosa gente friulana di cui vi onorate di essere figli. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, 51esima trasmissione dedicata agli emigrati. Testo e adattamento di Dino Menichini e Ermete Pelizzari. Hanno collaborato Ottavio Valerio e il coro di San Lorenzo di Sedigliano, diretto dal maestro Leandro Plenizio. Canti popolari. Fisarmonicista Gianfranco Plenizio.